vuole un fisico bestiale per resistere agli urti. Avete un fisico bestiale? Vorresti averlo nel corso del 2015? Tu ce l'hai. Ecco, ma va. No, altro mi piacerebbe. Con mente sano, il corpo sano. Nel senso che poi chi vince si porta a casa il dottor Confalonieri, esatto. Che potrebbe essere anche un bel regalo. Non ci vuole molto allenamento, sai. La crostatina del dottor Confalonieri non mi manca mai. Mi piace un sacco questa indicazione. Ho imparato anche da voi che l'ascolto, l'autoascolto è la cosa più importante. Ma io me lo bacerei, ciclo. Francesco. Ciclo. Che soddisfazioni! Non ci vuole un attimo di pace, sai, di pace, sai. Non di fare quello che ci piace, sai, mi piace, sai. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. La notte è piccola per noi, troppo piccolina, c'è poco tempo per ballare e per cantare. Se il giorno è lungo da passare, la notte vola. E a proposito di notte, come genitori permettereste a vostro figlio preadolescente di andare in giro da solo nel centro di una grande città dopo le 9 di sera? Probabilmente no. Eppure molti di noi permettono ai propri figli, sin dall'età più precoci, di navigare sia di giorno che di sera, a volte anche di notte, nel web, senza aver discusso regole, senza effettuare alcun monitoraggio. Voi che fate? Soprattutto come, cosa pensate? Oggi a Cuore Denari noi ci occuperemo degli eventi correlati al coinvolgimento di minori in situazioni pericolose che avvengono online. Voi ne avete esperienza diretta? È una delle paure che vi assillano? Chiamateci 800 024 0024. Questo è il tema che affronteremo nella prima parte di Cuore Denari. Queste informazioni sono state diffuse con il bilancio 2014 dell'attività della Polizia Postale, un bilancio che offre molti spunti interessanti anche per quanto riguarda i denari. Nel corso dell'anno passato è stato rilevato, per esempio, un considerevole incremento delle frodi informatiche realizzate attraverso l'accesso abusivo a caselle di posta elettronica, e non possono lasciarci indifferenti i dati relativi alle truffe commesse in rete. Sono oltre 80.000 le denunce presentate, oltre 2.300 gli spazi virtuali sequestrati, e quindi anche da questi numeri possiamo trarre insegnamento per riflettere sui nostri comportamenti e su come sfruttare al meglio, ma con sicurezza, le potenzialità della rete. Ne parleremo nella seconda parte della trasmissione, ci concentreremo sulle truffe informatiche legate all'ambito bancario e finanziario. Vi è capitato un furto di identità, una clonazione della carta di credito? Qualcuno è entrato nel vostro conto online? Come è successo? Che danno ha comportato per voi? 800 24 0024 per le vostre testimonianze. È di 38 arresti e 428 denunce per adescamento di minori online, produzione, diffusione e commercializzazione online di materiale pedopornografico il bilancio delle attività della Polizia Postale nel 2014. Sono invece 1.745 i siti internet su 18.774 monitorati, inseriti nella blacklist delle forze di polizia. Il dato è contenuto nel bilancio dell'attività condotta dalla Polizia Postale nell'anno appena concluso. Quanto al cyberbullismo, nel 2014 sono stati più di 300 i casi di prepotenze online compiute da minori contro minori trattati dagli esperti della Postale, il doppio dei casi dell'anno precedente. 28 sono invece i minori denunciati all'autorità giudiziaria che nel 2014 hanno fatto circolare immagini sessuali di compagni di classe e hanno perseguitato o deriso sui social network i coetanei. E questi sono i dati ufficiali pubblicati proprio in questi giorni dalla Polizia Postale, che ha diffuso il bilancio annuale delle attività compiute nell'anno appena concluso. Dati che fanno riflettere, e noi vogliamo fare una riflessione con voi a voce alta insieme ad Alberto Pellai, che è qua in studio con noi, medico e psicoterapeuta, che ha appena pubblicato per De Agostini un manuale per genitori intitolato Tutto troppo presto, l'educazione sessuale dei nostri figli ai tempi di internet. Bentornato Alberto. Ciao Nicoletta, ciao Deborah, buongiorno a tutti. Buongiorno. Alberto, probabilmente, visto il titolo del tuo libro, tu questi dati, che a noi sembrano così sconcertanti, te li aspettavi già. Come mai avvengono così tanti reati sui minori attraverso il web? Ma intanto perché i minori sono grandissimi utilizzatori di nuove tecnologie, esplorano, sono molto curiosi, e nella natura proprio dell'essere preadolescente uscire ed esplorare il mondo, sia quello nella vita reale che quello online. Allo stesso tempo c'è un'area della vita, per esempio la sessualità, che tra i 10 e i 14 anni esplode dentro a chi sta crescendo, quindi di nuovo è fisiologico essere molto esplorativi e molto curiosi. Infine, molte di queste attività però, e purtroppo, e questo magari è il tema che proprio deve attivare un po' i nostri ascoltatori, avvengono in totale solitudine, cioè non c'è alcun monitoraggio da parte dei genitori di quello che fanno i figli quando sono sul web. Capita che per esempio un bambino 9 anni riceve in regalo il suo primo cellulare, i genitori si occupano del piano tariffario e nessuno invece si occupa di dare un set di regole e accompagnare in questa avventura l'esplorazione del web il proprio figlio. E infatti i nostri amici che ci stanno seguendo da casa, che hanno figli preadolescenti, oggi vogliamo proprio chiedere come si stanno organizzando, se stanno monitorando i loro figli, se hanno dato delle regole. Alberto, c'è un aspetto che allarma molto i genitori, questo fatto di sapere che i ragazzi magari hanno una vita loro proprio nel web, e non a caso nel tuo libro tu affronti temi con l'intenzione proprio di attivare i genitori informandoli, parli di adescamento online, di sessualizzazione precoce, di uso massiccio della pornografia. Un mondo e un modo che di fare informazione che ha dei confini molto precisi. Sì, è fondamentale quando si ha un figlio che sta crescendo che come genitori noi sappiamo accompagnarlo anche nel percorso di educazione sessuale. La sessualità incrocia moltissimo il percorso dell'esplorazione web dei nostri figli. In seconda media un preadolescente su 3 ha già visitato siti pornografici, che sono spesso molto intensi, proprio siti per adulti con contenuti molto preoccupanti. Questo quasi sempre avviene nel silenzio, cioè le mamme e i papà non sanno dire nulla, non sanno fare il loro mestiere, lasciatemelo dire, cioè bisogna essere mamma e papà dei nostri figli non solo nella vita reale ma anche nella vita online. Quello è un territorio che non ha limiti, non ha confini, è un territorio rispetto al quale per avere limiti, confini e regole ci deve essere una mamma e un papà che li sanno proporre ai propri figli. Allora, alle mamme e ai papà, ma anche alle persone, agli adulti, con Alberto parliamo sempre di, spesso e con piacere, di genitorialità sociale, quindi ci rivolgiamo anche magari agli zii, agli amici, a quelli che sono gli adulti di riferimento magari dei preadolescenti. Chiediamo se hanno mai constatato un problema di questa natura nella propria famiglia, magari perché è successo a vostro figlio oppure perché si è verificato nella scuola frequentata dei vostri figli. Cosa avete fatto? Come siete intervenuti? Se siete intervenuti? Quali consigli, insomma, volete da Alberto Pellai, o eventualmente volete condividere con altri genitori adulti all'ascolto? 800 24 0024. I came in like a wrecking ball. I never hit so hard in love. All I wanted was to break your walls. All you ever did was wreck me. Yeah, you... Quella che stiamo ascoltando è una canzone molto nota nella comunità giovanile, Wrecking Ball di Miley Cyrus. L'anno scorso ha scatenato un grandissimo dibattito in tutto il mondo per i contenuti molto forti, direi hot, che proponeva alle giovanissime che adorano questa cantante su scala mondiale. Ma è davvero un problema per le nostre figlie scegliere come idoli preferiti, Nicoletta, star che si mostrano estremamente disinibite? Qua è passata ad essere da un modello per le piccolissime questa cantante, improvvisamente a diventare un simbolo, sì, della sessualità più estremo. Alberto, ma direi che dici bene, cioè una cosa che ha sconcertato e disorientato è che in origine lei era Hannah Montana, quindi esatto, una diva di una serie Disney molto amata dalle giovanissime, e improvvisamente diventa una trasformazione, sì, incredibile, molto sessualizzata, ed è molto in linea con un tema che tratto anche nel libro, che è quello della sessualizzazione precoce delle nostre figlie. Cioè tutti noi che abbiamo figlie ci troviamo a confronto con modelli che vengono proposti nella loro cultura, nel loro mondo pop, modelli che sono fortemente sessualizzati, che fondamentalmente raccontano che per avere successo nella vita la cosa più importante, se sei femmina, è presentarti molto sexy e molto disinibita, e questo in automatico ti dà una sorta di chiave di accesso al successo nella vita. Tutto il resto non viene raccontato, quindi è una sorta proprio di monodimensionalità che viene proposto come successo assicurato, successo garantito. Se tu stai crescendo, ti stai proprio ponendo: ma cosa significa per me diventare grande? Come posso farcela io nella vita ad avere successo, a diventare veramente me stessa? Quindi ti confronti con i modelli che ti vengono proposti come vincenti. Questo è un tema così importante che l'Associazione degli Psicologi Americani ha veramente costruito una task force e ha compilato un report che dà moltissime indicazioni agli educatori e ai genitori. Noi dobbiamo veramente ampliare il focus e lo zoom di osservazione delle nostre figlie. Dobbiamo anche, soprattutto, Alberto, e questo ancora non riusciamo a farlo, parlare con i nostri figli e svolgere un ruolo importante anche per quanto riguarda l'educazione sessuale. Tante volte preferiamo non dire nulla, vediamo i nostri ragazzi, i nostri figli sempre come bambini, non è mai il momento, i genitori si palleggiano, parlagli tu, no parlagli tu, non è ancora arrivato il momento, si crea questo vuoto di informazione che è anche un vuoto di educazione, che naturalmente che viene riempito da altro. Sì, credo che hai proprio dato la definizione perfetta, cioè mentre noi quando eravamo bambini e ragazzi molto probabilmente abbiamo avuto genitori silenziosi, ma il mondo in qualche modo aveva dei limiti, aveva dei confini, c'era una zona vietata ai minori che poteva essere esplorata ma con molti limiti. I nostri figli crescono in un mondo ipersessualizzato che non ha limiti e confini, e conseguentemente la sessualità entra massicciamente nella nostra vita. Se il mondo del mercato parla così intensamente e invece il mondo educativo, quindi genitori e scuola, stanno zitti, le uniche suggestioni, attitudini, sollecitazioni che loro ricevono rispetto al tema della sessualità sono quelle che provengono dal mondo del mercato, e non hanno una bussola che possa permettere a loro invece di integrare la sessualità non in un progetto di consumo ma in un progetto di vita. 800 24 00 24, se volete parlarne con noi, se avete dei figli preadolescenti, se state a guardare anche i figli di amici e notate magari delle mancanze dei genitori che però per una serie di ragioni non si hanno il coraggio di affrontare, di denunciare. Alberto, tra l'altro non parliamo di ragazzini che vivono in delle condizioni di disagio, parliamo di ragazzini assolutamente che vivono in famiglie assolutamente tra virgolette normali, insospettabile, e che diventano o vengono addescati o si trovano proprio in questo mercato molto fiorente di proposte. Guarda, quando ho pensato e poi ho scritto il libro Tutto Troppo Presto, avevo veramente in mente quattro storie di miei giovani pazienti che potevano davvero essere i miei figli, cioè vivevano in famiglie attente, in famiglie competenti, e semplicemente si erano persi nel territorio della rete, del web, perché i genitori non pensavano che lì potessero succedere cose pericolose ai loro figli. E tra l'altro parliamo di ragazzini di 10-12 anni che nella mente della loro mamma e del loro papà erano ancora un po' dei patatoni, dei bambinoni, non dei soggetti che potevano entrare in un sito pornografico per adulto, potevano con la webcam scattare di sé foto o filmati a sfondo sessuale. Tutto questo nella mente dei genitori era impensabile, e quando le mamme e i papà mi chiedevano aiuto dicevano: io non mi sarei mai immaginato che nella nostra famiglia sarebbe potuta succedere una cosa secondo di questo te tipo. Non ci sono segnali, non ci sono segnali sospetti, un cambiamento del ragazzo, non dico dal punto di vista psicologico ma anche proprio delle abitudini, il ragazzo che magari sta più spesso da solo in camera sua, che non riesce a staccarsi da internet, insomma qualcosa che ci faccia suonare un po' un... Ci sono degli indicatori di rischio molto concreti, cioè se tuo figlio sta molto più sull'online che nella vita reale, se fondamentalmente ogni sua attività, ogni suo minuto di tempo libero passa poi davanti allo schermo, se si chiude nella stanza, se quando arriva la mamma o il papà immediatamente blocca quello che sta facendo, è chiaro che c'è una zona che vuole tenere nascosta, non visibile a mamma o papà. Cosa c'è in quella zona, potremmo domandarci come adulti, davvero non la dobbiamo esplorare con lui se ha solo 11 o 12 anni? Questi direi che sono... Molti genitori dicono: io non me ne occupo e io non me ne preoccupo perché io mi fido di lui. E può essere proprio che a 11-12 anni è troppa fiducia, cioè è troppo complesso quel mondo e quel sistema per dargli in totale autogestione l'organizzazione di sé dentro al mondo web. È troppo, è tutto troppo presto. Il titolo del libro di Alberto Pellai, di cui da cui prendiamo spunto per commentare appunto questi dati. Abbiamo tanti ascoltatori che stanno intervenendo. Tema delicato, ma vediamo che i genitori stanno cavalcando molto volentieri. Allora prendiamo subito le prime testimonianze. Valerie D'Alecco all'800 24 0024, benvenuta. Sì, pronto, buongiorno a voi e insomma voglio ringraziare per tutti i temi affrontati, vi Grazie. Ascolto da molti anni e vi apprezzo veramente moltissimo. Grazie Valerie. Di niente, noi abbiamo avuto quattro anni fa, il ragazzo che quando era alle medie tornò da scuola un giorno e fece, cioè ci disse quasi con naturalezza, quasi con spavalderia, che dei compagni si erano collegati con YouPorn, il sito YouPorn. Io non sapevo tanto di cosa si trattasse. Mio marito ha reagito un po' in una maniera, ma come mai, ma questa scuola, insomma, ha respinto un po' l'offerta di dialogo da parte di nostro figlio. Invece ho placato gli animi, ho detto come mai, cosa è successo, la prof non ha esercitato i controlli. Mi sono recata a scuola, mi hanno detto che insomma eseguirebbero accertamenti per vedere come mai i server non erano protetti, e poi io ho lasciato morire lì questa cosa, ma non ho aggredito il figlio, ho detto sì, hai visto delle cose, ne parleremo, succederà un'occasione. Insomma, dopo alcuni giorni il figlio si è presentato a me, mio marito era assente, e lui mi ha chiesto, mi ha detto: mamma, andiamo a vedere assieme, ma non so come spiegare, è stato molto strano per me perché non avevo mai pensato di dover affrontare in modo così violento, così ho avuto pochi secondi per riflettere, sì. Ho preso su me stessa, ho detto: che facciamo? Siamo andati assieme ad aprire il sito, sì. Abbiamo guardato per un paio di minuti, diremo, tutto sommato. Poi il ragazzo si è ovviamente gonfiato come un galletto, e poi dopo un po' ci siamo messi tutti e due nel divano, e dopo un po' di coccole, di lasciare venire il ragazzo a me, lui è scoppiato in domande su quanto era stato scioccato da quel che aveva visto. In questo senso io ritengo, ne ho parlato con molti genitori intorno a me e mi hanno detto che ero una folle, in poche parole, di aver agito, cioè di essere andata col figlio. Io l'ho trovato un approccio molto coerente, sì. Perché avevamo già parlato di sessualità, lui sapeva che i cavolfiori, i piselli e le verdure sono cose che non esistono, cioè ci sono degli organi genitali preposti ad altro ruolo che l'apparato respiratorio o oculare, certo. Insomma, così abbiamo in tutta naturalezza. Poi il ragazzo mi ha inondata di domande, ma di domande ove mi diceva: ma mamma, la cosa che è stata la più meravigliosa, che mi ha detto, ma in francese ovviamente, mi ha detto: ma quando un papà e una mamma si vogliono bene, delle cose così si fa. Era talmente violento le follie che aveva visto, povero angelo, che ho detto, e lì ho potuto aprire tutto un mondo dicendo: quando ci si vuol bene, ossia è stata un'occasione per incontrare il figlio. Valerie, esatto. Noi la ringraziamo davvero per questa sua testimonianza, che sicuramente vogliamo condividere naturalmente con i nostri ascoltatori. 800 24 00 24, vi è capitato, che cosa avreste fatto? Alberto, ma è un racconto interessantissimo e ci dice una cosa importante che racconto anch'io nel mio libro, cioè parlo proprio di un undicenne diciottenne che ha visitato lo stesso sito pornografico del figlio di Valéry e che ha scoperto due cose: da una parte l'eccitazione molto intensa e dall'altra però la traumatizzazione. Cioè la pornografia che un undicenne vede dentro un sito pornografico per adulti, per lui è davvero impensabile. Come dico nel libro, è come mettere un elefante dentro una 500. E questo significa che, siccome non ha un posto per poterla collocare, quella intensità comincerà a dare disagio. E quindi ha fatto molto bene Valéry poi a diventare un contenitore del disagio del figlio. È questo che dobbiamo fare noi adulti. Il problema alla fine probabilmente non è censurare, perché questa roba entra nella loro vita così intensamente, ma è saper contenere, saper spiegare. Ed è vero, la sessualità di internet per i figli è impensabile, perché se ti vuoi bene, se pensi a tua mamma e a tuo papà, pensi probabilmente che fanno l'amore e non che fanno un sesso così strumentale, ecco, dove non c'è relazione, non c'è emozione, c'è soltanto piacere e godimento, ma spesso proprio in una modalità che è impensabile per un ragazzo di 11 o 12 anni. Cuore e denari. Mi scusi, l'è cascato questo? È suo, l'è cascato? Ma no, questo non è mio. Come non è suo? Ma no. Non l'è cascato? Ma è molto bello, eh? Direi questo è pure antico, la quale sarà anni 50, 60, 70, fine 700. Questo tra qualche anno diventa stile Liberty. Tenga, tenga, è fortunata lei, lo tenga lei. L'abbiamo trovato insieme, tenga. Se poi mi vuol dare così, visto che l'abbiamo trovato insieme, ha un valore alto, se mi dà 3 milioni. Cosa? 2 milioni. 1 milione. 600.000 lire. Guardi che questa menata di truffa è vecchia. L'ho vista e mi manda Lubrano. Oh, oh. Si tolga dai piedi o chiamo la polizia. Insomma, questo giovane Nino Frassica in questo film che si intitolava Anni 90 è andata proprio male, un maldestrissimo tentativo di truffa. Ora siamo nel 2015 e le tecniche per truffare il malcapitato di turno si sono evolute, naturalmente le più moderne passano dalla rete. L'obiettivo non cambia, però spillare i nostri denari, ed è per questo che spesso sono proprio i nostri depositi finanziari, le nostre carte di credito e di debito, i nostri conti correnti che spesso utilizziamo online ad essere presi di mira. Nella seconda parte di Cuore Denari ci concentreremo su queste nuove truffe. Se vi è capitato di subirne alcune, raccontatecele. Vi chiediamo anche di raccontarci quali sono le precauzioni che prendete, come proteggete i vostri dati personali, le vostre credenziali finanziarie. 800 24 00 24, raccontatecelo e intanto riprendiamo la parte di Cuore. Quando postiamo su internet un po' così, siamo sotto gli occhi di tutti. Il nostro messaggio, un po' così, si muove senza il nostro controllo e può suscitare reazioni strane, anche spiacevoli. E che, una volta postato, non puoi più tornare indietro. È come girare nudi senza saperlo. Come ti sentiresti tu? Posta con la testa. E quello che abbiamo appena ascoltato è il testo di un videomessaggio di prevenzione prodotto da Save the Children, Posta con la testa, che intende prevenire un fenomeno di cui Alberto Pellai parla nel suo libro intitolato Tutto troppo presto. È il sexting. Che cos'è e perché può diventare, Alberto, un serio problema per i ragazzi che lo praticano? Ma il sexting è la sex posting, cioè mandare attraverso il proprio cellulare immagini connotate sessualmente di se stesso o di qualcun altro. È una pratica molto frequente soprattutto tra le preadolescenti, che fanno una sorta di dono d'amore al loro fidanzatino del momento, ed è anche un modo con cui in realtà stanno cercando di proteggersi dalla sessualità vera. Cioè, invece di coinvolgersi sessualmente così presto con qualcuno, nella virtualità dicono: io ti mando un pezzetto di mia intimità che tu puoi vedere, non ci tocchiamo, non facciamo niente di male. Potrebbe essere quasi, come scrive la ricerca, un modo davvero di proteggersi. Allo stesso tempo però non considera che nel momento in cui quella storia finirà, quella foto non è più sotto il loro controllo, può frequentemente uscire dalla coppia e può diventare materiale di tutto. Il ragazzo, per esempio, se è stato lasciato, potrebbe molto essere molto arrabbiato con lei e quindi divulgarlo ai suoi amici dicendo: guardate che poco di buono che era la mia ex. Un'altra modalità che spesso viene usata è proprio invece di fare sexting, come cyberbullismo, cioè, certo, rubare la foto. Magari siamo in gita, nel della doccia di un nostro compagno, lui nudo, e poi buttarla in giro un po' per prenderlo in giro. È terribile. Tutti pensano, facciamo uno scherzone, no? Con un click, sì, in un secondo facciamo uno scherzo così tanto per ridere, ma le conseguenze invece sono gravissime. Restano dei tatuaggi, come dici tu, tatuaggi emotivi. Tatuaggi emotivi, perché provate a immaginare di essere un dodicenne che ha la foto del proprio corpo nudo nei cellulari di tutti i propri compagni. 800 24 00 24, Deborah, diamo la parola ai nostri ascoltatori, esatto, che stanno chiamando il nostro numero verde per intervenire. Avevamo preannunciato l'arrivo di Enzo da Milano, che salutiamo. Benvenuto Enzo. Buongiorno. Buongiorno. Che ne pensa? Volevo solo dire che, come avviene da parte delle aziende, per poter accedere a certi siti, e particolarmente quelli pornografici, è sufficiente la registrazione. Senza registrazione non si può accedere. È talmente semplice. E questo serve a tutelare gli adolescenti e comunque tutti, insomma. Non vedo niente di castrante o di violazione all'autonomia personale. Vuoi andare a vedere una cosa particolare? Come vuoi accedere al sito di un'azienda? Ti registri e vai a vedere quello che vuoi. Guardi Enzo, questa sua considerazione possiamo trasferirla anche nella parte di denari. Dopo abbiamo con noi Umberto Rapetto, uno dei massimi esperti di crimini informatici, e magari gli possiamo proprio chiedere, essendo un tecnico estremamente specializzato su questi argomenti, se questa potrebbe essere una buona soluzione o se già magari è in vigore qualche obbligo di registrazione su questi siti, che poi questi siti magari in qualche maniera non rispettano e riescono comunque a bypassare anche la censura, insomma, chiamiamola così. Enzo, grazie per la sua considerazione. Buona giornata ad Enzo. Mm-hmm. Alberto, c'è un'altra cosa che terrorizza gli adulti, è l'adescamento online. Ne leggiamo, ne sentiamo parlare, ma che cosa deve sapere un genitore su questo argomento? Come fa a proteggere il proprio figlio, a informarlo? Perché l'informazione è prevenzione. Sì, credo che su questo, per esempio, la ricerca negli ultimi 10 anni ci ha insegnato molte cose. Cioè, in moltissimi casi noi diamo ai nostri figli delle informazioni su ci potrebbero essere sconosciuti, che fingono di essere tuoi coetanei e che entrano in contatto con te chiedendoti l'amicizia e poi parlando come se fossero un tuo pari, e conseguentemente noi li allertiamo su quanto bugiardi potrebbero essere coloro che loro incontrano nel web. La realtà è completamente diversa, cioè in moltissimi casi di adescamento online sono tra dodicenni, tredicenni e quattordicenni che incontrano dei maggiorenni che in realtà si qualificano come tali, cioè si presentano e dicono: io mi chiamo Paolo, ho 35 anni, in realtà ho visto il tuo profilo Facebook e ti vedo come una persona davvero molto bella, molto sensibile. Cominciano a usare una modalità seduttiva, in realtà qualificandosi esattamente per quello che sono, cioè adulti interessati a un minore con cui generano un'intimità nella virtualità sempre più intensa, sempre più pressante, e spesso allora poi preparano il salto, il passaggio, cioè dalla chat per esempio alla webcam. Ci possiamo chiamare via Skype, così cominciamo a vederci negli occhi, e fondamentalmente quello che poi, certo, provano i nostri figli è uno stato di innamoramento, una sorta proprio di passione amorosa, come se, certo, lui fosse la lusinga è forte, naturalmente. Ci cascano le quarantenni, le cinquantenni, Nicoletta, ci caschiamo anche noi della nostra età, perché non, certo, è poi un fenomeno così diffuso. Figuriamoci che tipo di presa può avere un atteggiamento di questo tipo su una bambina. Quindi, allora, io volevo ricordare, leggere il messaggio di Vito da Bari, che riprende molti altri consigli degli ascoltatori che ci stanno scrivendo per in qualche modo proteggere, no, i nostri figli, e ci scrive che per sorvegliare i figli nelle attività web ci sono applicazioni che possono essere installate in modo trasparente, che permettono di seguire in real time le attività svolte su smartphone e PC. Bisogna aggiornarsi tecnologicamente. Quindi, da un lato, l'invito, il suggerimento di molti ascoltatori che dicono: sì, ma il genitore deve essere tecnologicamente preparato e informato per, no, mettere un po' dei paletti nella navigazione del proprio figlio. Io penso che questo sia però il 50% di quello che dobbiamo fare. Poi c'è l'altro 50%, che è quello forse che ci mette più in gioco come genitori, come persone, perché ci costringe a ripensare, no, anche al nostro rapporto con il sesso, con il corpo, con le informazioni che abbiamo ricevuto. Noi veniamo da una generazione, da genitori che forse di sesso non ci hanno parlato in modo così, no, esplicito, ma anche così formativo. innovativo. Allora Alberto, sicuramente la tecnologia ci aiuta, ma c'è anche tutta l'altra parte dell'informazione, e questo è il messaggio che tu lanci nel tuo libro, no? Fare educazione sessuale, che vuol dire parlare con i propri figli. Assolutamente, credo che oltre a essere tecnologicamente smart, come hai detto tu, bisogna essere dei buoni educatori per i nostri figli, integrare la sessualità nel nostro progetto educativo. Dovessi dare un ulteriore consiglio ai genitori, date l'esempio. Moltissimi ragazzi che per esempio noi psicoterapeuti vediamo nello studio, in realtà guardano i profili Facebook dei genitori e spesso rimangono molto disorientati da quello che mamma e papà fanno nei loro social. Allo stesso tempo molti figli maschi a 13-15 anni guardano nel computer di papà e spesso rimangono molto disorientati dalla quantità e dalla tipologia di pornografia che trovano nel computer di papà, una sorta di inversione dei ruoli per cui loro quasi chiedono: ma io come posso fare a controllare o a gestire mio papà? Come posso diventare un adulto, esplorare il mondo della sessualità se ho un papà che apparentemente mi sembra così confuso e disorientato? Non dimentichiamo, noi siamo proprio modelli di ruolo e ai nostri figli che stanno crescendo un padre fornisce anche un modello di identità di genere. Io non l'ho mai visto, ma conosco delle persone che mi hanno raccontato che guardano, per insegnare la sessualità ai propri bambini, un documentario cartoon di Bruno Bozzetto. Non so se lo conosci, Alberto. Sì, ci sono in realtà disponibili online. Poi c'è tutta la parte buona, cioè proprio come ci sono rischi. Voi potete proprio mettere siti educativi per educazione sessuale su Google, vi si apre un mondo, troverete moltissimi materiali. Il consiglio è di non farlo in tempo reale col figlio di fianco, cioè se volete integrare queste informazioni in un progetto educativo, dotatevi voi di un vostro kit degli attrezzi, costruitevi una vostra cartella fatta dei download che vi sembrano molto utili e poi di fianco ai vostri figli, per esempio lo spot che avete mandato in onda, posta con la testa, è disponibile su YouTube, voi salvatelo e poi guardatelo con i vostri figli e provate, partendo da quello spot, a discutere con loro che cosa pensano del messaggio che deriva da esso. Cuore e denari. Saremo hacker dei nostri PC, campioni di bocce col Nintendo Wii, vetrina del salotto senza porcellana, ma con il bambolotto di Tony Montana. Sai che ridere se la mia generazione arriverà all'età della pensione, coi jeans, i tic e la depravazione, il silk e pille, il pill in depressione. E allora cari amici, e poi Nicoletta, Alberto, insomma stiamo parlando di internet, e quando si parla di internet ovviamente ormai naturalmente il discorso scivola su tutto ciò che succede nel mondo dei social network, che della rete sono ormai la nuova frontiera. A questo proposito ora vogliamo segnalare ai nostri ascoltatori una campagna educativa itinerante dedicata proprio ai più giovani e ai temi del cyberbullismo, dell'adescamento online e all'importanza della sicurezza della privacy. Questa campagna si chiama Una vita da social. È proprio così, è realizzata dalla Polizia di Stato in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, l'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, e ha proprio come obiettivo la sensibilizzazione e la prevenzione dei rischi e dei pericoli della rete. Nella prima edizione gli operatori della Polizia Postale e delle Comunicazioni hanno incontrato circa 100.000 studenti nelle piazze e 400.000 nelle scuole, ma anche tanti genitori, tanti insegnanti, e adesso sta partendo proprio la seconda edizione che presenta delle novità, Deborah. Esattamente, tra le novità di questa seconda edizione c'è anche una rappresentazione teatrale, si intitola Like, storie di vita online, e noi abbiamo il piacere di parlarne con l'ideatore, l'autore di questa iniziativa, che è anche un nostro grandissimo amico, è stato anche conduttore della mattina di Radio 24. A noi manca moltissimo, è vero. E anche gli ascoltatori se lo ricordano con grandissimo affetto. Luca Pagliari, ben ritrovato Luca, ciao. Ciao. Anche voi mi mancate, assolutamente, buona giornata. Ciao caro Luca. Allora Luca ha fatto tantissime cose nel corso della sua vita professionale, è stato autore di programmi radiofonici, televisivi, oltre che di campagne di sensibilizzazione generale su tanti argomenti, la lotta contro l'uso degli stupefacenti, insomma tantissime cose, e adesso ti sei cimentato appunto in questa ultima iniziativa con la collaborazione della Polizia di Stato. Di cosa parla lo spettacolo, Luca? Ecco, vedi l'emozione. E noi eravamo qua che gli abbiamo messo 1000 like a proposito. E allora, adesso intanto lo ripeschiamo. Che ripeschiamo Luca Pagliari che sì. ci racconterà di questo spettacolo che porterà in giro in molte sì. città italiane. Alberto, salutiamoci con delle indicazioni, dei messaggi, rassicuriamo un po' i nostri genitori. A proposito di genitori, sentiamo sì. Alberto da Como. Prendiamo la Fermati testimonianza lì. Di Alberto per far fare la conclusione al nostro Alberto. Alberto, buongiorno. Buongiorno, sono un Alberto sicuramente minore, saluto il dottor Pellai. Ma no, non dica così. Saluto Alberto Pellai, che forse la voce la può riconoscere. Comunque, grazie per gli spunti molto, molto belli. Come genitore di due bambini di 10-8 anni, non posso che anch'io in qualche modo essere da un certo punto di vista interessato, dire poco, ma anche un po' così preoccupato, perché come dicevo prima alla vostra, che ha ricevuto sì. la telefonata, noi usiamo poco i mezzi di comunicazione, internet eccetera, per cui da un certo punto di vista mi trovo anche un po' impreparato, cioè li uso ovviamente per il lavoro, però per dire quei bambini a casa non abbiamo smartphone piuttosto che e vedo che effettivamente già nella scuola primaria molti bambini quarta e quinta elementare l'uso di questo strumento come babysitter virtuale, che è veramente un obbrobrio dal mio punto di vista, però come diceva il dottor Pellai è l'esempio prima di tutto, per cui a una riunione con i nostri genitori della scuola, quando è stato detto chi ha un profilo Facebook, mentre si parlava appunto di queste cose, praticamente il 90% dei genitori hanno alzato la mano, per cui la mia domanda e vado al dunque è: l'esempio è prima di tutto, come diceva il dottor Pellai, però noi stessi che siamo un pochino refrattari a questo genere di social eccetera, come possiamo proporre un messaggio positivo inteso alla anche protezione dei nostri figli da trovarsi, come diceva prima Valerie, improvvisamente di fronte a questo mondo? Cioè io ho 47 anni, quando ero piccolo la mia mamma mi ha comprato un libro su come nascono i bambini e vabbè, devo dire che è stato bello come esperienza. Adesso c'è il libro del dottor Pellai che sicuramente comprerò, però anche qui parlarne quando, a che età, o soprattutto c'è un momento particolare, in casa mia girano libri di medicina perché vabbè, faccio il medico e i miei figli li guardano, per cui si parla di apparato genitale maschile e femminile e non di vegetali, come diceva Valerie, patate, piselli eccetera. Per cui tutto sommato penso che un buon libro, magari vedo che loro lo esplorano ogni tanto, hanno i loro libri anche per bambini, forse non è così sbagliato tornare alla vecchia carta. Grazie di tutto. Grazie ad Alberto. Ma che belle testimonianze stamattina che abbiamo preso e abbiamo ricevuto. È vero, noi siamo molto contenti, ringraziamo, tra l'altro abbiamo ripescato anche Luca Pagliari. Luca, stai lì, non mi cadere. Ti si è emozionato il telefono? Allora Alberto. Ma direi che Alberto ci dice che come genitori dobbiamo darci una mossa, dobbiamo diventare comunque smart. Il consiglio che darei io è questo: cercate nella classe dei vostri figli un genitore che è tecnologicamente competente, chiedetegli di farvi proprio un tutorial, cioè trovatevi una sera insieme a scuola, accendete un computer, fatevi aiutare a capire quali sono le sfide, le complessità, i rischi e i pericoli, ma anche le opportunità che il sistema mette a disposizione. Provate a vedere come genitori che lista di regole vorreste mettere in un ipotetico contratto educativo con i figli intorno all'uso delle tecnologie. E se regalate un cellulare al vostro bambino, soprattutto se parliamo di bambini fra i 9 e i 12 anni, sappiate che l'unica preoccupazione non deve essere solo il piano tariffario, ma deve essere proprio capire insieme a lui che cosa vi aspettate dal suo modo di utilizzare il cellulare. E soprattutto dovete proprio un po' dirgli: come genitore io starò molto attento a quello che fai, non per spiarti, ma proprio per accompagnarti e per aiutarti a conquistare gradi progressivi di libertà. Allora, grazie ad Alberto Pellai per essere stato con noi. Ricordiamo il titolo del suo libro: Tutto troppo presto, l'educazione sessuale dei nostri figli ai tempi di internet, di Agostini Editore. Grazie Alberto. Grazie molte. Luca da un Pagliari, amico all'altro. Esatto, Luca Pagliari. Allora, abbiamo stabilizzato il collegamento telefonico? Assolutamente. Eccoci qua. Allora, tra l'altro, Luca, oltre che ad essere un ottimo regista, autore, conduttore e tanto altro, è anche un papà. Chissà sì. come gestisce a casa sua questo problema, ma noi non vogliamo saperlo. Vogliamo che ci racconti qualcosa di più di Like Storie di Vita Online. Che cosa ci vuole raccontare questa tua rappresentazione teatrale, Luca? Beh, sicuramente avere una figlia di 17 anni, questo significa avere un osservatorio privilegiato. E Like Storie di Vita Online nasce appunto attorno a una vicenda reale, quella di Andrea Spezzacatena, tristemente conosciuta questa vicenda come il ragazzo dai pantaloni rosa. E io circa un anno e mezzo fa mi sono messo in contatto con la mamma. Ho ricostruito lungo l'intervista della mamma, applicando veramente la figura di Andrea come fosse un cartone animato, una sorta di spettacolo, un termine che non riesco, è molto difficile definire perché si parla di un ragazzo che purtroppo si è tolto la vita a 14 anni. Diciamo che è una ricostruzione tra giornalismo e teatro della vita di Andrea. E in questa vita troppo breve che io racconto sul palcoscenico, aiutato appunto dall'intervista con la mamma e da queste immagini che ho ricostruito di Andrea come fosse un cartoon, si passa attraverso il momento devastante del peso della parola, questa chat che praticamente veniva utilizzata per mortificare, umiliare questo ragazzo che aveva come dire un'unica colpa, non era un ragazzo omologato. Il lunedì non parlava di calcio, preferiva andarsene in libreria, qualche giorno prima di togliersi la vita si era andato a ordinare Il rosso e il nero di Stendhal, una mappazza di 560 pagine. Andrea non era omologato. Andrea ha applicato in un mondo di parole, e parole che fanno male, come in questo caso, ha applicato forse la regola più terribile, quella del silenzio, ha covato dentro. Si è tenuto dentro questo enorme peso e alla fine purtroppo è andato a cercare la soluzione più devastante. È una storia che fa riflettere sul peso delle parole, fa riflettere su come facilmente, aggiungendo con il ditino un semplice like, si aiuta e si collabora e si, come dire, si contribuisce a una lapidazione virtuale che molto spesso è pesante. Vorrei dire una cosa: quando al Brancaccio abbiamo presentato per la prima volta con la Polizia di Stato questo chiamiamolo format, questo incontro, i ragazzi hanno lasciato tanti messaggi. Io avevamo preparato una scheda di gradimento per sapere se questa comunicazione gli sarebbe piaciuta o più o meno. Sulla crocetta sì o no hanno più o meno tutti trascurato, perché hanno dato per scontato che la cosa gli interessava molto, ma quello che mi ha colpito è che un 30% dei ragazzi invece ha scritto di proprio sfogandosi, dicendo che si è sentita più volte vittima di episodi in cui è stato trattato ingiustamente sul web, o altri hanno detto: mi sono reso conto che il peso delle parole e può far veramente male. Ecco, quindi il senso di Like Storie di Vita Online è quello di indurre una riflessione sul peso delle parole. Corretto utilizzo del social network e anche del silenzio dei nostri ragazzi, Luca. Anche, assolutamente. Sì, a proposito di parole, ci sono dei silenzi che raccontano proprio dei forti disagi, come è capitato ad Andrea. E quindi grazie per questo lavoro. Tu non sei nuove iniziative di sensibilizzazione, esatto. E tu hai sempre delle parole, dei format che riescono ad arrivare al cuore dei ragazzi soprattutto. Io nell'esperienza diretta ricordo che Luca aveva parlato con le mie figlie, allora preadolescenti, di una storia di droga, di ragazzi che erano drogati ma non avevano la percezione di esserlo. A distanza di anni ancora le mie figlie, che erano rimaste incantate una sera a cena, lui era venuto e ci aveva raccontato, ripetono ancora la storia anche loro ai cugini più piccoli, eccetera. Quindi l'obiettivo è proprio di incidere su queste vite. Adesso partiamo con questo tour, ci tengo a dire, esatto, che... dove lo porterai, Luca, perché andiamo, bravo, andremo in tutte le principali città d'Italia, accompagnati ovviamente dalla polizia di Stato, ed è un'iniziativa che ci tengo proprio a dirlo, che nasce con Baci Perugina, che ha sposato questa campagna, perché i Baci Perugina sono forse stati tra i primi a utilizzare delle piccole frasi, quasi fossero dei messaggini su WhatsApp, come fossero, e sono messaggi d'amore. Quindi cerchiamo di far capire attraverso anche questo che le parole possono far bene nella stessa misura in cui possono far male. Allora noi useremo in maniera propria, non impropria, Facebook e metteremo magari l'elenco delle tappe di questo spettacolo per verificare se poi i ragazzi in tutte le città italiane potranno seguirlo. Cuore e denari. Amore mio, non devi stare in pe- Sono tranquilla io, anche se attraverso il bosco, con l'aiuto del buon Dio, stando sempre attenta al lupo, attenti al lupo, attenti al lupo. Ebbene sì, il lupo può essere sempre dietro l'angolo in tante situazioni della nostra vita in cui noi ci vestiamo anche un pochino da cappuccetto rosso. Per questo è bene essere sempre allerta, senza diventare paranoici, ma almeno facendoci accompagnare dalla giusta prudenza. Nella seconda parte della trasmissione oggi ne parliamo in relazione alla sicurezza dei nostri denari. In comune con la pagina di Cuore c'è questo bilancio 2014 dell'attività della Polizia Postale, che non ci lascia tanto tranquilli. Frodi informatiche, truffe, accessi abusivi alle caselle di posta elettronica, poi ci sono i furti di identità, le clonazioni delle carte di credito, e chi più ne ha più ne metta. In tanti già ci state raccontando la vostra personale disavventura all'800 24 00 24. Qual è la situazione nella quale vi siete trovati? Come vi siete accorti? Che danno avete avuto? Quali sono le buone abitudini, le precauzioni che mettete in atto per evitare di incappare in questi disguidi, chiamiamoli così? Allora, oltre naturalmente al numero verde, potete anche scriverci al 349-238-6666, su Facebook, su Twitter, quindi anche i social network, utilizzateli correttamente, mettete il like laddove è necessario metterlo. Con noi oggi un grandissimo esperto di crimini informatici, il generale Umberto Rapetto, esperto in sicurezza informatica. Ricordiamo che è generale in congedo della Guardia di Finanza, ma ha fondato, per chi lo ricorda, il famoso GATT, il gruppo anticrimine tecnologico delle Fiamme Gialle. Generale Rapetto, benvenuto, siamo molto contenti di averla con noi. Buongiorno. Buona giornata a voi, ed è un piacere naturalmente. Grazie. Però adesso parliamo anche in coro col generale, come i gattini siamesi della a lui piacerà molto questa immagine. Però generale, non so se lei ha avuto modo di seguirci anche nella prima parte della trasmissione, quando abbiamo parlato di queste molto pericolose tecniche di adescamento online che molti adulti usano appunto per accalappiare l'attenzione delle ragazzine, e anche di come sia molto facile oggi per i giovani, giovanissimi, andare su siti pornografici che non hanno alcuna protezione. Qualche ascoltatore suggeriva: ma perché la legge non obbliga questi siti e chi li gestisce a obbligare i possibili utenti a fare una registrazione, una password d'accesso, in modo tale che siano meno liberi anche nella frequentazione per i giovani? Lei ha mai studiato, immagino di sì, il fenomeno? Allora, intanto cominciamo con il discorso la legge quale? Di quale paese, visto e considerato che non esistono confini, ma il diritto prevede l'applicazione di ferree regole di competenze e giurisdizione. Se il paese in cui si trova questo sito web non ha alcuna intenzione di cautelare quelle che possono essere le fasce maggiormente debili rappresentate dai minori, è ovvio che diventa difficile poter avere un atteggiamento cogente, imperativo nei confronti di chi eroga contenuti attraverso la rete. Poi c'è da dire un'altra cosa: sì, è vero, una password può servire per poter autenticare un certo tipo di soggetto, ma come un tempo i genitori di oggi, quando erano magari più piccini, cercavano di entrare al cinema per vedere proiezioni che prevedevano un limite d'età ben definito, organizzavano qualunque trucco pur di sembrare più adulti, e naturalmente i tempi sono cambiati, ma ciclicamente ci ritroviamo a dover fare i conti con le medesime situazioni. situazioni, quindi la curiosità è talmente forte che un minore non esita a inerpicarsi attraverso la rete, fra l'altro con un'agilità degna di un felino, per poter individuare un passaggio che gli permetta di vedere quello che magari viene indicato come proibito. E poi proprio il fatto che è proibito, che innesca delle volontà, la curiosità. C'è da dire una cosa sul radicamento, che abbiamo avuto negli ultimi due anni una inversione di tendenza: non più gli adulti che vanno ad adescare i minori, ma i minori che adescano loro coetanei o adescano persone di fascia d'età sicuramente maggiore di quella d'appartenenza. E cosa si va a tradurre questo? Che l'aggancio avviene attraverso i social network, dopo una prima fase di dialogo normalmente testuale attraverso sistemi di messaggistica come possono essere le chat. Si chiede all'interlocutore se dispone di una webcam, e a quel punto l'adulto che crede di avere una nuova giovinezza, di poter così individuare magari una ragazzina particolarmente avvenente, aderiscono a questo invito e si stabilisce una connessione che improvvisamente quasi fosse il calore della stanza in cui si trova la fanciulla, determina così la voglia di liberarsi degli indumenti. A quel punto inizia una sorta di striptease, viene chiesto da questa ragazzina, che fa parte poi di un'organizzazione che si presta a fare questo genere di attività, viene naturalmente chiedere all'interlocutore, sia questo un coetaneo o una persona adulta: ma anche tu non hai così caldo come posso avere io, ma perché non ti togli anche tu qualcosa, perché non mi fai vedere? Che cosa succede? Che naturalmente c'è un'escalation con dettagli che non sono degni di questo orario, ma la cosa maggiormente importante, interessante e preoccupante naturalmente è il fatto che questa performance, questa prestazione di chi è stato raggirato e portato in trappola viene registrata attraverso i vari software, i vari programmi che permettono di acquisire quello che appare sullo schermo. E poi quando il ragazzino pensa di aver rimorchiato, mettiamolo tra virgolette, una bella coetanea, oppure l'adulto dice: accidenti, guarda che cosa ho saputo fare, potrò magari addirittura vantarmene con gli amici, non fanno in tempo né uno né l'altro, perché arriva dopo poco una invita che dice: guarda che guardati questo link, io per il momento ho parcheggiato il filmato che ti ritrae in atteggiamenti sicuramente poco consoni rispetto alla tua figura su questo sito. Sappi che o mi dai del denaro e me lo fai avere attraverso i canali di trasferimento che sono classici come i vari meccanismi di money transfer, o altrimenti io lo pubblicherò sulla tua pagina Facebook, lo divulgherò, lo manderò ai tuoi amici. E naturalmente, dato che la pagina Facebook è stato magari proprio l'elemento di incontro, la persona che organizza questa trappola ha ben cura di diventare amico di tutti gli amici e di acquisire comunque l'elenco dei soggetti a cui poi quindi trasferire. La rete si allarga a dismisura. Io veramente, generale, non so se sia meglio che all'interno di una famiglia si verifichi una massiccia clonazione di tutte le carte di credito di tutti, uno svuotamento del conto corrente, piuttosto che una situazione di questo tipo a danno di un figlio, perché qua veramente l'imbarazzo della scelta, direi. Però penso proprio che mamma e papà tutto vogliono che si verifichi, tranne che questa situazione. Eppure questi casi sono purtroppo diffusi? Esistono delle statistiche? Esistono dei dati preoccupanti, perché vedono accumulati i figli e i genitori. Sì. E quindi diciamo che questa tempesta ormonale sul web non fa distinzione di generazioni, di età, e questo, insomma, preoccupa il web, perché risveglia gli ormoni. La cosa preoccupante è che non si riesce poi ad uscire da questo tunnel, perché l'organizzazione che ha, tra virgolette, brevettato, poi l'hanno fatto tanti altri, ha una sua dislocazione nella parte nordafricana tra Tunisia, Algeria e Marocco, e quindi sembrano appetitose fanciulle dalla francofone, quindi parlano francese, spiccicano qualche parola magari in italiano o in inglese, e purtroppo non è facile andare a recuperare materialmente le loro coordinate, così da consentire un'attività investigativa che possa, tra virgolette, avere un esito favorevole e positivo, certo. Generale Rapetto, ci torneremo su questi argomenti perché vedo che oggi hanno avuto una presa notevole fra i nostri ascoltatori, però altrettanto ce l'hanno. Dobbiamo pensare anche ai danni, il tocca nel portafoglio. E allora anche qua chiaramente le truffe si moltiplicano a dismisura, sono diventate molto sofisticate negli ultimi anni, quindi qualche tempo fa conoscevamo la semplice clonazione della carta di credito, il phishing, ma adesso i criminali informatici hanno delle tecniche più avanzate, no? E le stanno adottando in ogni modo per intrufolarsi nel nostro conto corrente. Ci racconta le novità recenti di questo mondo, in questa evoluzione generale? Ecco, poi dopo andremo alle testimonianze degli ascoltatori. Diciamo che a parte quello che rappresenta il pacchetto tradizionale, ecco, truffaldino, vista la crisi, la carenza di opportunità occupazionali, tutti quelli che cercano lavoro ovviamente stabiliscono un rapporto telematico con qualunque interlocutore che possa prospettare quantomeno una speranza, e allora lì si innescano le più diverse formule per poter entrare in possesso di denaro. Viene chiesto ad esempio di comprare un kit contenente manuali, programmi, software di autoaddestramento, quindi dei corsi online, per ottenere naturalmente nessuna occupazione. Questo, diciamo, è la pietra d'angolo. Non solo questo, viene addirittura candidato a una posizione in una città straniera dove aspettano nient'altro che un profilo professionale come quello del candidato, in quel momento iperattivo, e gli si dice: guarda, devi mandare però del denaro per le spese assicurative, oppure ti abbiamo già trovato casa, anticipa per favore soltanto gli oneri per la registrazione del contratto. Piccole somme, naturalmente si va sempre a rucchiare quei 100, 150, 200 euro che costano sempre meno che non doversi rivolgere poi ad un legale per far valere i propri diritti. E purtroppo questa è un'operazione di sciacallaggio particolarmente diffusa che sta incontrando diciamo terreno favorevole. E questa, diciamo, modalità appartiene al mondo più ampio delle false opportunità di lavoro. Ce ne sono una valanga, e fra l'altro sul mondo del lavoro si vanno ad innescare poi i fenomeni che sono quelli classici del furto d'identità, perché tutti non esitiamo a pubblicare curriculum completi di ogni dettaglio, completi di fotografia, numero di telefono e ogni genere di recapito, e questo naturalmente agevola tutti quelli che poi vogliono impersonare il nostro ruolo e agire per nome e conto nostro, con tutte le riverberazioni anche di carattere economico-finanziario, perché una volta che uno dispone di certe informazioni può stipulare contratti avendo così tutta quella dovizia di particolari che gli sono stati forniti da un curriculum particolarmente dettagliato. Certo. E invece, generale Rapetto, le modalità nuove che i malviventi adesso utilizzano per andare a spillarci soldi dal conto corrente, quali sono? Diciamo che uno dei meccanismi più efficaci è quello del keylogger. Key significa tasto, log è in pratica il registro che noi conosciamo, per è quello che cattura tutte le informazioni che il nostro computer esegue. Un keylogger quindi è uno strumento che consente di acquisire quello che viene digitato alla tastiera di un computer su un telefonino, e normalmente sono le password. Questi keylogger vengono nascosti, possono essere sia hardware che software, quindi hardware bisognerebbe andare a casa delle vittime a doverlo installare, mentre invece quelli software possono essere inoculati, quasi fosse una benefica mistura da dover inserire nelle vene. In questo caso viene veicolata all'interno dei computer con cavalli di Troia che si prestano. Noi scarichiamo un'app che crediamo essere bellissima, divertente, magari non ci serve a nulla, ma è gratis, e quindi perché non approfittare, certo, di questa chance? Uno scarica l'app e non sa che all'interno c'è un programma che è nato per sgraffignare le parole chiave che consentono l'accesso poi al conto corrente, che trasferiscono queste porzioni di applicazione, tutte quelle informazioni riservate. privata di cui noi siamo gelosissimi e non sappiamo che invece vengono abilmente fagocitate. Esatto. Tra l'altro, pur nella loro bellezza, utilità e pur con tutto il divertimento che ci portano, i nuovi dispositivi telefonici molto moderni in realtà favoriscono il proliferarsi di queste truffe, come è successo a Rosario, che ci chiama da Catania. Anche lui ha avuto il suo cavallo di Troia. Buongiorno Rosario. Buongiorno. Che è successo? Buongiorno, non a me in prima persona, ma a mia moglie, con la clonazione di una carta di credito. Niente, è successo che mio figlio si era fissato che voleva un giochino sul cellulare e quindi ha massacrato la mamma finché lo comprasse. Sì. 99. È vero, l'ha presa per sfinimento proprio, Rosario, sì, come si suol dire. Sì. Finita, anche perché, voglio dire, io lavoro nel campo delle finanziarie e dicevo sempre: non comprare, che c'è qualcosa che non va, 99 centesimo cosa compri? E comunque, dopo giorni e giorni di massacro, dice: ma gliela compro io con la mia carta di credito, e ha comprato. E abbiamo trovato una bella sorpresa: si sono presi 1500 euro in 2 giorni. Rimborsa la banca, Rosario, tra l'altro, in questo caso che tipo di strada avete seguito per tentare di rientrare di questa somma? Sì. Sì, noi abbiamo fatto subito la denuncia ai carabinieri, abbiamo portato tutto in banca, abbiamo seguito tutto quello che c'è la posta, certo, perché in quel caso era una perché la prima cosa da fare, ha fatto bene proprio la denuncia, in modo tale che con il documento della denuncia abbiamo poi la banca... Abbiamo subito bloccato la carta, poi siamo andati ai carabinieri, poi abbiamo portato tutto in banca, alla posta in questo caso, perché era una carta di Compass, e la posta ha trasferito tutto alla Compass. La Compass ci ha detto che entro, non mi ricordo, 15-20 giorni ci avrebbe dato una risposta, e ci hanno risposto che purtroppo per loro, cioè purtroppo per noi, non c'era niente di anormale e che bisognava pagare. Caspita, perché cioè, secondo loro era venuta non regolare. Ecco, ma generale, com'è possibile? Ecco. Esatto. Tra l'altro, 99 centesimi di un'app, non è, Rosario dice, per me era strano, ma in realtà scaricare queste applicazioni in realtà è così economico, no? Perché hanno proprio questa attitudine di essere Rosario conveniente. Cosa avrei detto? Ve l'avevo detto, guarda, non mi sentite mai. Generale. Purtroppo ce ne sono ogni giorno di nuove, soprattutto non ci si rende conto che proprio su quei microscopici importi, poi magari ripetuti in maniera ciclica, si costruiscono le fortune dei nuovi briganti digitali. I nuovi briganti digitali, però secondo lei la banca fa bene a non risarcire Rosario, pur avendo potuto dimostrare che si è trattata di una truffa vera e propria? La banca gioca la sua partita, non sempre in maniera corretta, e purtroppo gioca sul tempo, gioca sul fatto che magari l'interlocutore si stanca, e questo dimostra, se vogliamo, un rapporto di carattere etico veramente scadente, certo, perché non ci si rende conto che anche quella piccola somma può essere drammaticamente importante per chi si rivolge, infatti, con forse addirittura con grande speranza di trovare conforto, invece si vede sbattere la porta in faccia. Una porta di legno. Esatto, generale, un dispositivo di sicurezza, un antivirus, io non so tecnicamente neanche come poterlo chiamare, che magari avrebbe potuto capire nel caso di Rosario che si trattava di una applicazione strana che avrebbe potuto portare a questa conseguenza, un blocca applicazioni malandrine. Ce ne vorrebbero troppi e sempre molto aggiornati, perché purtroppo chi costruisce inganni di questo genere sa perfettamente quali sono i limiti dei software di protezione e arriva sempre dopo quel che possa essere il software di difesa, e quindi il fatto di conoscere tutte le cautele agevola il corso di chi vuole trovare una soluzione in grado di dribblare ogni sorta di precauzione. Rita da Milano. Buongiorno a tutti, grazie per l'ospitalità. Volevo dire 2 episodi, se me li fate dire tutte e 2, perché sono il secondo è interessante. Allora, il primo è una clonazione di una carta, e fortunatamente mi sono accorta, avevo fatto un acquisto online, praticamente mi sono accorta perché lo stesso giorno della clonazione io ero andata a acquistare in un supermercato e la mia carta è risultata smagnetizzata. Mi sono recata subito in banca e questi hanno chiamato la Visa e mi hanno detto ma la signora si trova in Canada, no, dice, qui davanti a me, per cui diciamo che stavano clonandola in Canada. Ecco, e lì insomma è riuscita ad evitare un danno. È stata fortunata. Sì, è stata bloccata perché era acquisto di quasi 400 euro, insomma, così. Però. E l'altra, vabbè, quindi l'hanno bloccata e io ho risolto collegando la carta di credito con il telefonino, per cui quando faccio un acquisto mi arriva subito il segnale sul telefonino. L'alert. Ecco, questa è la prima cosa, ma la seconda invece è un po' più particolare, perché ho messo sul sito di acquisti di cose usate la vendita di una macchina fotografica analogica. E il giorno dopo di questo annuncio che avevo pubblicato mi è arrivata un'email dal Texas che volevano questa macchina e volevano i dati della mia banca. Certo. Mi è arrivata un'email eccetera, quindi mi hanno rubato i dati della mia email e io chiaramente non ho risposto. Ma poi il giorno dopo dal Sudafrica, io ho detto come fanno, sono diventati internazionali. Infatti, all'improvviso ce lo diceva poco fa, Rapetto, come fanno? Abbiamo purtroppo solo 30 secondi, ma un ultimo commento su questo caso, tanto ancora a dimostrare come si stiano sofisticando, come dicevamo prima, i malandrini del web. I briganti sono in ogni angolo del mondo, sono attentissimi alle offerte di opportunità che possono provenire da qualunque paese, quindi possono notare la macchina fotografica e poi mandano messaggi a tutti quelli che sono inserzionisti e qualcuno ci cade e purtroppo loro riescono a mietere il successo che si aspettavano di ottenere. Ma noi abbiamo lo sceriffo del web che naturalmente ci protegge in ogni modo e che ci dà tutte le indicazioni su queste novità, ahimè, perché ne abbiamo anche fin troppe. Grazie generale Umberto Rapetto, buona torni giornata. Torni a trovarci, buona giornata. Buona giornata. Richiamiamo senz'altro. Noi torniamo domani. Che dici? Io direi di sì, dai. Noi siamo qua alle 11. Con Marco, con Isotta, con Carmelo, con tutti. A domani.